vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 4 dicembre, il sole in regione è sorto alle 7.32 e tramonterà alle 16.22. Giovedì ci sarà luna piena. Siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Cibo sintetico sì o no? Secondo i sondaggi gli italiani sono estremamente diffidenti, eppure a livello globale ci si sta investendo moltissimo. Ne parleremo con Coldiretti, che ha lanciato una agguerrita campagna contro gli alimenti di sintesi. In arrivo c'è poi la giornata celebrativa del suolo, ecosistema complesso da cui dipendono vita ed economia. Torneremo quindi in cantina, è tempo di pensare alla stabilità biologica del vino. Il lavoro non si ferma nella rubrica dell'orto, sentiremo cosa c'è da fare anche durante l'inverno, mentre con il corpo forestale regionale torneremo a parlare della disastrosa estate di fuoco, ma anche della bella collaborazione con i paesi confinanti. L'angolo della gastronomia ci porta alla riscoperta delle neglette rape, non solo bravada, ma tanti nomi e tante ricette per queste umili radici. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Una legge che vieti produzione e vendita di cibo sintetico in Italia, della carne prodotta in laboratorio, del latte senza mucca, è la battaglia di Coldiretti. Vanessa Orlando, Coldiretti Udine, come sta andando la raccolta in regione? Sta andando molto bene, appunto in 10 giorni abbiamo raccolto 200.000 firme in Italia per consegnarle al ministro e ora stiamo continuando in tutti i mercati, e qui sul territorio la sensibilità dei consumatori e dei cittadini rispetto all'argomento è molto forte. Con il nuovo anno potrebbero essere presentate all'Unione Europea delle prime richieste per l'introduzione al commercio di questo tipo di alimenti, dopo che ci sono stati primi via libera dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti. Voi avete notizia di qualche richiesta che potrebbe effettivamente concretamente arrivare? Fortunatamente non riguarda l'Italia, certamente in Europa e i Paesi Bassi soprattutto hanno già a disposizione un sacco di milioni di euro per partire nel 2023. L'Italia per fortuna è ancora molto legata alla tradizione, alla tutela del suo territorio, per cui non abbiamo contezza di quello che può essere una richiesta immediata. Certo è che speriamo neanche non possa ipotizzarsi. Vanessa Orlando, chi è favorevole al cibo di sintesi, al cibo in vitro, dice che per esempio per produrre la carne in laboratorio si consuma meno suolo, si consuma meno energia, si consuma meno acqua, non si uccidono gli animali. Non è del tutto vero, perché innanzitutto dietro al cibo c'è una convivialità e un'unione sociale, per cui il cibo è rappresentativo di un territorio, quindi il cibo al bioreattore, diciamo, uniformerebbe una certa cultura che noi non vogliamo. E poi non è vero, perché comunque per elaborare un cibo al bioreattore il consumo energetico c'è, l'elaborazione da embrioni animali c'è e non risolve i problemi della fame del mondo. Veniamo a un aspetto importantissimo: l'introduzione di questi cibi di laboratorio per il sistema agricolo del Friuli Venezia Giulia, per l'occupazione che il primo comparto ha in Friuli Venezia Giulia, che cosa significherebbe? Immaginiamoci l'abbandono delle nostre campagne, che vorrebbe dire l'abbandono dell'ambiente, perché di fatto i contadini sono i custodi del nostro territorio e della nostra tradizione. L'agricoltura rappresenta un settore molto importante dal punto di vista di un PIL e dell'occupazione, quindi noi assolutamente diciamo no al cibo fatto in laboratorio. Una battaglia che si affianca a quella per il cibo di qualità, per il cibo vero, contro la falsificazione anche in agricoltura. Esatto, noi ormai da anni combattiamo contro la falsificazione dei prodotti tipici dell'Italia e quindi con questo tuteliamo un sacco di imprese agroalimentari che operano sul territorio e producono cibo vero, cibo sano e cibo che porta con sé un sacco di valori culturali. Ci sono giornate celebrative per tutto e per tutti, ambiente compreso, anche se tanto impegno, ammonisce Cristina Micheloni, non sembra scalfire le nostre cattive abitudini nei confronti del pianeta. Ma riproviamoci col suolo, che si celebra il 5 dicembre. Visto che da esso dipende tutto il nostro cibo, ma anche tanto altro come l'acqua pulita, un buon quarto della biodiversità terrestre, il riciclo di tutti i nutrienti che servono alle piante e a noi di conseguenza, lo stoccaggio di quantità immani di carbonio e quindi la capacità di attenuare il cambiamento climatico e continuare ad avere delle possibilità di presenza umana sul pianeta. Ma come possiamo essere meno stolti e celebrarlo ogni giorno? Diciamo subito che le piante sono assai più generose di noi con il suolo, solo un numero. Come sapete, le piante fanno la fotosintesi, ovvero trasformano l'energia solare in zucchero. Ne lasciano dal 20 al 40% nel terreno per alimentare i microrganismi che ci vivono e che con loro collaborano. Generose sì, ma non lo fanno senza convenienza e lungimiranza. Gli animali al suolo donano le proprie deiezioni e le proprie spoglie, ma soprattutto non lo danneggiano, essendo in qualche modo istintivamente consapevoli di dipendere da esso. Questo vale per gli animali selvatici e quelli allevati in modo estensivo. Per quelli degli allevamenti intensivi la cosa cambia, ma la responsabilità non è degli animali, ma degli umani. Ecco, proprio gli umani. Quelli degli ultimi secoli ne hanno cementificato una buona parte. Nel 21 in Italia la cementificazione ha raggiunto il tasso più elevato dell'ultimo decennio, più di 2 metri quadri al secondo, ovvero quasi 70 km quadrati di nuove coperture. Ma noi friulani siamo più virtuosi dei connazionali? Mica tanto. Arriviamo a percentuali dall'8 al 15% di suolo consumato. Cosa incomprensibile data la bassa densità di popolazione, ovvero più di 650 metri quadri ad abitante in quasi tutti i comuni della regione. Meglio di noi fanno anche la popolosa Lombardia e ricco Veneto. Ma almeno quello su cui non costruiamo lo trattiamo bene? Anche qui non vi dirò nulla di nuovo. A partire dall'aver disboscato buona parte della regione, questo molto prima degli ultimi secoli, cosa che ha esposto il suolo all'erosione, all'ossidazione e conseguente perdita di sostanza organica ed altrettanto conseguente emissione di carbonio in atmosfera, per arrivare poi all'attuale aratura, utilizzo di fertilizzanti di sintesi, erbicidi e fitofarmaci che hanno profondamente alterato l'equilibrio di quella miriade di organismi che abita il suolo, lo mantiene vivo e sano e continua così a costruirlo. Visto che nemmeno in termini di deiezioni e spoglie siamo così utili al suolo, diciamo che potremmo almeno prendere con decisione la via dell'agricoltura che riduce le lavorazioni, tiene coperto il suolo il più possibile e usa fertilizzanti organici. Va da sé che se facciamo tutto questo ma continuiamo a spargere diserbanti e liquami con una bella dose di antibiotici, il gioco non regge. Diamoci un'altra possibilità, intanto cominciamo col capire, ma sapere poi significa anche responsabilità. Vi lascio qui alla pagina Facebook della trasmissione il link al webinar che si terrà il 5 dicembre alle 17, organizzato da IAB Friuli Venezia Giulia. Quando i lieviti hanno terminato di metabolizzare il glucosio e il fruttosio, quindi la fermentazione alcolica si è conclusa, uno dei principali problemi che si devono affrontare, ci dice Roberto Zironi dell'Università di Udine, è garantire in cantina la stabilità biologica del vino. Al termine della fermentazione primaria il vino è ancora microbiologicamente fragile, in quanto contiene ancora dei composti fermentescibili. In questa fase, il primo substrato metabolizzato dai microrganismi è l'acido malico, che attraverso un processo di decarbossilazione viene trasformato dai batteri lattici in acido lattico e anidride carbonica. Tra le numerose popolazioni batteriche che si trovano nel mosto in fermentazione, Pediococcus, Lactobacillus e Enococcus sono i responsabili di questa fermentazione malolattica, ed in particolare Enococcus eni, che è quello che meglio si adatta alle condizioni fisiochimiche del vino. All'inizio della vinificazione, la biomassa batterica del mosto aumenta, ma con l'avvio della fermentazione alcolica, l'aumentare della biomassa dei lieviti regredisce bruscamente. Nella fase finale della fermentazione alcolica iniziano a carico dei lieviti dei processi di autolisi, che rilasciano nel mezzo peptidi, aminoacidi e vitamine, che favoriscono la crescita dei batteri lattici. La trasformazione dell'acido malico in acido lattico provoca un aumento del pH e una diminuzione dell'acidità totale del vino. L'impatto organolettico nel vino, oltre alla perdita di acidità, è caratterizzato da un aumento della morbidezza e della complessità aromatica. Per questo motivo la fermentazione malolattica è ricercata nella produzione dei vini rossi e negli ultimi anni anche per la produzione di alcuni vini bianchi caratterizzati da una maggiore complessità e morbidezza in bocca. Viceversa, non viene eseguita nei vini bianchi più giovani e freschi, che si caratterizzano invece per una maggiore acidità. I batteri lattici, quando hanno completato la degradazione dell'acido malico, metabolizzano anche l'acido citrico, con produzione, oltre che di acido lattico, di acido acetico e di alcuni altri metaboliti, tra cui il diacetile, che apporta note di burro che possono migliorare notevolmente il bouquet aromatico di alcuni vini. Lo sviluppo dei batteri lattici porta anche alla formazione delle amine biogene, che sono molecole allergeni responsabili nell'uomo di disturbi fisiologici quali mal di testa, arrossamenti cutanei e reazioni allergiche di vario tipo. Alti livelli di amine biogene possono anche avere effetti negativi sulla qualità sensoriale del vino. La produzione di questi ammini è strettamente legata al ceppo batterico. Quindi, per controllare la produzione di ammine biogene per la fermentazione malolattica, si utilizzano batteri selezionati per essere bassi produttori di queste sostanze. Nonostante la presenza di ammine biogene sia un fenomeno diffuso, non esiste una legislazione specifica, ma alcuni paesi esteri stanno considerando l'ipotesi, per tutelare la salute dei propri consumatori, di porre dei limiti al contenuto di ammine biogene sui vini importati. Il fuoco nelle aree forestali è da sempre stato un problema, un grosso problema. La riprova la scorsa estate, quando si è lottato per settimane contro questi fenomeni. Ne parliamo con l'ispettore della forestale Dario Di Gallo, perché proprio la forestale è uno dei corpi che è deputato a contrastare il fuoco. E dunque il fuoco nelle aree naturali. L'estate 2023 ha rappresentato per tutta l'Europa, ma in particolare per la nostra regione, un punto di svolta per quanto riguarda il problema degli incendi boschivi nelle aree naturali. Evacuazioni cautelari di aree abitate, chiusure di linee ferroviarie, chiusure della rete autostradale, problemi per atmosfera satura di fumo nei centri urbani, ettari di boschi e prati letteralmente inceneriti, danni alle colture pregiate, fauna morta ed importanti aree naturali protette devastate dalle fiamme. Tutte queste immagini sono rimaste scolpite nella nostra memoria perché ci hanno profondamente colpito e turbato. Lo spegnimento di questi incendi, che contemporaneamente bruciavano su tutto il territorio regionale, hanno richiesto l'intervento di tutte le forze, volontari e professionisti, a disposizione del nostro sistema di difesa civile. Ma nella necessità abbiamo visto anche una splendida collaborazione reciproca con le forze dei paesi confinanti. Nel grande incendio del Carso hanno operato senza confini volontari, vigili del fuoco, forestali, esercito di Italia e Slovenia. Questa rete di collaborazione ci ha permesso, insieme alle seppur scarse piogge cadute a fine estate, di avere finalmente ragione di questi fuochi. Per il personale del Corpo Forestale Regionale, questo compito è una delle funzioni primarie che gli sono state attribuite con legge specifica, per l'espletamento della quale dispiega sul campo un complesso sistema di automezzi dedicati, mezzi aerei, servizi di prevenzione, addestramento specifico avanzato e creazione di squadre speciali capaci di intervenire anche in situazioni molto complesse dal punto di vista della morfologia del territorio interessato da questi eventi. Questa funzione viene svolta in maniera sinergica e coordinata con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con l'organizzazione e il personale volontario della Protezione Civile Regionale. Collaborazione questa molto importante perché permette ad ogni organizzazione di dare il meglio delle proprie potenzialità, completandole poi con le professionalità specifiche degli altri corpi. Augurandoci che la prossima estate non si presenti così estrema nelle sue manifestazioni, impegniamoci tutti nel nostro quotidiano per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. È tardi, ma dobbiamo fare tutto il possibile per dare una possibilità alle generazioni future. La puntata di oggi si occuperà delle attività che si possono ancora eseguire nell'orto che, seppur rallentate, ci ricorda Sara Bosco, non si interrompono mai del tutto. Piano piano infatti la campagna sta entrando nel riposo stagionale ed è un buon periodo per effettuare le arature di quei terreni che non hanno coltivazioni, e così da esporre i suoli all'azione benefica delle basse temperature, che poi ci restituiranno a primavera un terreno ben disgregato e affinato. In questo periodo proseguono le raccolte di molte colture autunno-vernile come verze, porri, cavolfiori, ma anche sedano rappa e svariati radicchi. Infatti troviamo radicchi di Chioggia, di Castelfranco e di Verona a ciclo medio, che sono pronti per la raccolta. E per accertarsene è sufficiente tastare il cespo e, se è ben compatto, si può procedere alla raccolta. Inoltre troviamo il radicchio di Treviso precoce, detto anche spadone, che è verso la fine della raccolta, mentre inizia la raccolta e la forzatura in bianchimento del tipo tardivo. Ci sono poi una serie di radicchi che possiamo definire più nostrani, che sono il radicchio rosa di Gorizia e il radicchio col POC. Il primo è come radicchio di Treviso tardivo, ha bisogno dell'imbianchimento, e che può essere eseguito in vario modo. Generalmente le piante vengono prelevate dal campo e poste in un ambiente buio, e dopo che queste però hanno subito già le prime gelate in campo, perché il gelo insieme all'imbianchimento danno quel caratteristico sapore, gusto dolce del radicchio. Per quanto riguarda il radicchio col POC, si tratta di un radicchio da grumolo che non viene imbiancato e che si ottiene a partire da diverse varietà. Questo però non sarà pronto prima di gennaio, mentre attualmente si può iniziare la raccolta del mantovano. Infine, chi possiede un piccolo tunnel e ha effettuato le semine di valerianella, rucola, ravanelli o spinacio a inizio ottobre può già procedere con le prime raccolte da partire da metà a fine mese. È un periodo sì più tranquillo, ma ancora ricco di buoni prodotti da portare sulle nostre tavole. Protagonista della tavola di dicembre di Roberto Zottar è la rapa, che però è quasi scomparsa dalle cucine di casa. Rape, ras, raus, ravuzis, gnaus, ufiei, pitiniz. Sono sempre alla ricerca di piatti scomparsi e oggi non voglio scambiare un ravo per un travo o tirar fuori la storia della rava e della fava, ma solo quella di alcune ricette con le rape, dato che la rapa è sparita dalle nostre tavole se escludiamo il suo consumo sotto forma di brovada. Una curiosità, la brovada in Friuli si cucina prevalentemente con la cipolla, mentre nella Venezia Giulia solo con aglio. Vi avevo già dato la ricetta della ras a cui ras, ovvero dell'anatra con le rape, e oggi vi parlerò di vis c'è o vis chie o vis ces, e di rape caramellate al tegame. Indubbiamente la rapa è un prodotto poverissimo, ma almeno fino a quando non è stata soppiantata sulle tavole dall'arrivo della patata, è stato un alimento fondamentale per i contadini. Curiosamente la rapa assume nomi differenti in diverse località, arrivando perfino a diventare un soprannome per gli abitanti, come nel caso di Verzegnis, dove si chiama Gnau, e così le persone sono Ignaus, o a Gorizia, Borgo San Rocco, dove è Lufiel, e gli abitanti, a seconda delle vie in cui vivono, sono detti ufiei con la coda o senza coda. Un'altra curiosità, la rapa da cotta assume nomi diversi a seconda delle cotture. Ufiel è la rapa bollita che si mangia così in purezza, solo sbucciata o condita con un filo d'olio, sale e pepe. Le rape piccole più brutte, non adatte a produrre brovada, venivano cotte nella cenere sotto le braci e così trattate diventavano nere e prendevano il nome di pitiniz. E da ciò il detto tu ses neri come un pitiniz. Questa differenza di nomenclatura tra crudo e cotto mi ricorda la lingua inglese, dove gli animali hanno nomi diversi se vivi o cotti. Pensiamo alle coppie pig e pork per il maiale, calf e veal per il vitello, ox e beef per il manzo, sheep e mutton per la pecora. Tornando alle nostre rape, con il motto di Nostra sa nuie, si può realizzare un ottimo piatto anche solo con le foglie di rape giovani, la cosiddetta vischie. Seguendo Gianni Cosetti, stufiamone 1 chilogrammo per 10 minuti in un tegame con burro, uno spicchio d'aglio che poi toglieremo, mezza cipolla tritata e 50 grammi di lardo a dadini. Versiamo sopra 2 cucchiai di farina di frumento stemperato in un bicchiere di latte e cuociamo per altri 10 minuti. Concludo con una ricetta di mia nonna a base di piccole rape giovani, le cosiddette ravuzis. In un tegame fate caramellare dello zucchero con un po' di burro, versatevi le rape a dadini, crude o prelessate, salate, pepate e cuocete e alla fine aggiungete uno spruzzo di aceto. In entrambi i piatti la polenta è un accompagnamento perfetto. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in regione. Mercato debole con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais comunità 14% è stato quotato tra 31,90 e 32,20 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 34,10 e 34,60, l'orzo peso specifico 62,65 tra 29,80 e 30,30 e la soia tra 53,50 e 54 euro. Mantenute in prevalenza le ultime quotazioni di bovino e macello. Le vacche fine carriera e prima qualità sono pagate a peso morto fra 3,20 e 3,70 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda tra 2,60 e 3,20. Pressoché stazionari anche le contrattazioni nel settore dei vitelli da ristallo, dove i Blubelga maschi vengono quotati tra 6,50 euro il chilo IVA compresa, I pezzati rossi fra 4,30 e 4,70, i frisoni tra 1,70 e 2 euro, i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Mercato con dinamiche diversificate invece nel comparto suinicolo, con i nattonzoli di 30 kg quotati franco partenza a 3,47 euro al chilo, IVA esclusa, i grassi da macello a 1,95. Sostenuta l'attività nel settore caseario, dove la commissione camerale di Pordenone e Udine giovedì scorso ha quotato il montaggio di 90 giorni tra 8,70 e 8,90 euro al chilo, IVA esclusa. Quello di 4-6 mesi tra 9,80 e 9,90. Lo stagionato 12-15 mesi tra 10,10 e 10,30. Con marchio di qualità tra 11,10 e 11,30. Migliora anche il prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotato franco stalla tra 58 e 60 centesimi il litro più premi in qualità e IVA. Infine, prezzi stabili invece nel settore dei foraggi. Il fieno mazengo di pianura viene quotato tra 18 e 20 euro il quintale, IVA esclusa. L'erba medica di prima qualità fra 34 e 35 euro. E la paglia di cereali pressata in lieve calo viene pagata tra 12 e 14 euro il quintale. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Novembre 2022 è stato più mite della norma su pianura e costa, con valori medi mensili superiori al normale di un grado e mezzo, mentre sulla zona montana la temperatura media è stata superiore alla norma solo di pochi decimi, in virtù della presenza di neve al suolo che ha favorito l'abbassamento delle temperature. La temperatura più bassa del mese è stata misurata a Fusine nel Tarvisiano il 27 novembre, quando si sono toccati i meno 9 gradi al mattino, mentre le temperature più elevate sono state registrate il 1 novembre con 21 gradi nell'Isontino, a Cividale e sul Carso. Ci sono state alcune giornate con piogge intense, con cumulati importanti, ma abbastanza in linea con altri episodi significativi classici di questo mese. Anche la bora ha fatto la sua comparsa in più occasioni, toccando anche i 115 km orari sul mare davanti a Trieste il giorno 22, quando si è verificata anche l'acqua alta molto rilevante su tutta la zona costiera. Nella giornata di oggi e anche di domani sono attese piogge abbondanti su pianura e costa, nevicate abbondanti soprattutto in quota, e domani forse anche qualche temporale, provocato dal passaggio di una depressione con aria più fredda in quota. Martedì e mercoledì, con l'arrivo di un promontorio anticiclonico accompagnato da correnti nord-occidentali più secche in quota, dovremmo avere tempo più stabile, con cielo in prevalenza poco nuvoloso, lieve calo delle temperature minime notturne, che probabilmente scenderanno attorno allo zero o leggermente sotto lo zero anche in pianura, mentre le massime saranno attorno ai 12 gradi. In montagna, nelle zone con presenza di neve al suolo, le minime saranno decisamente più basse, mentre sulla costa l'effetto mitigante del mare si sentirà ancora, con minime notturne più elevate. Nelle ore notturne sarà possibile anche la formazione di nebbia o di foschie sulla bassa pianura. La tendenza del tempo, nella seconda parte della settimana, sembra essere determinata dall'ingresso sul Mediterraneo di una nuova vasta area depressionaria, con il passaggio di alcuni fronti atlantici. Tale configurazione probabilmente porterà tempo molto umido, con piogge anche abbondanti, specie venerdì. Inoltre, con l'afflusso di correnti più mite atlantiche, la quota delle nevicate sembra essere piuttosto elevata, oltre i 1400-1600 metri di quota circa. L'evoluzione che si preannuncia è piuttosto dinamica. Si consiglia, pertanto, di seguire quotidianamente gli aggiornamenti, soprattutto per valutare l'intensità e la distribuzione delle precipitazioni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. A San Nicolò si ara col bo, ovvero a San Nicolò il 6 dicembre si ara con il bue, forse perché, visto il probabile terreno gelato, è più forte delle vacche. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.